di madre all'opera. In questo giorno ben sollecita sei dal re che vuoi. Opportuna di segni. Oh, signora, d'abbando tuoi sospetti. Tempo è dell'amor tuo, tempo è del mio. I soldan che ben sai che te al suo letto chiamo forzato e sola me volea ciò che mi tolse al figlio mio dar brava. Pubblicar vuol che dal mio amor rapito nel dì che allor natale fu comune e cambiassi i nostri parti e che Melinda sia figlio mio e il mio Zelim sia tuo. Io che più del suo regno amo mio figlio, ma posi il suo voler. E questo ancora attende le soldane. Pria con lusine, poi con minacce, e lo terrai. Padre, malo padre, sposo crudel. De nostri figli l'ugore cura si prenda, onde deluso resti il barbaro pensiero. Tutti cadrem, ma ciò non fia che avvenga. Si cada pur, semplice il grado.